Stai sul Radio Wombat. Questa è 8 Hertz. Buonasera amici di Radio Wombat, siete su 8 Hz che questa sera vi propone questo tipo di suono. Quindi si parla di zona ambient o drone. Spesso ultimamente sono un po' definiti quasi come la stessa cosa, anche se non è propriamente così. Ma tanti, tanti inesperti chiamano ormai tutto drone, per cui bisogna stare molto attenti a cos'è il drone e cos'è l'ambient. E comunque qui ci sono, volendo, entrambe le cose, appunto. Sono brani pochi questa sera, pochissimi, ma lunghi, e per cui ha senso lasciarli nella loro integrità e non spezzarli, perché la durata è un motivo fondamentale per questo tipo di composizioni o di sperimentazioni. È un ambient fantasmatico, un haunting drone, un haunting ambient, diciamo. Il suono, ripeto, è questo. Quello che abbiamo ascoltato era William Basinski. Il titolo del brano è difficilissimo perché è una serie di numeri e lettere tra parentesi, è una formula matematica, una funzione, non lo so perché non ci capisco niente. E attratto all'ultimo brano in scaletta dell'ultimo disco, che si chiama On Time, Out of Time, del 2019, appunto, uscito per Temporary Residence Limited, che è un po' l'etichetta che ha prodotto i suoi ultimi dischi. Di Basischi ne abbiamo già parlato, ma vi faccio un ripassino, diciamo, perché è molto importante come musicista. È della classe del 1958 di Houston in Texas, ma ora da un po' si è trasferito giustamente a Los Angeles in California. Musicista, jazz, clarinettista e sassofonista ai tempi, e poi via via si è dato alla musica sperimentale attraverso l'utilizzo dei loop tapes, dei nastri messi in loop e riequalizzati, un po' trattati, venendo appunto da una scuola che ha a che fare con Steve Reich, più che altro. Cosa è successo? Che era sconosciuto fino a un po' di anni fa, ma quindi è quasi nel 2000, insomma, è stato scoperto perché è diventato famoso, quasi una star, perché Carsten Nicolai, ovvero Alvanoto per chi conosce la musica elettronica, e anche fondatore della label tedesca Rasternoton, che produce roba di ottima qualità. Lo aveva conosciuto e aveva sentito questi Disintegration Loop, che poi uscirono in 4 volumi. E questi Disintegration Loop erano appunto loop tape che lui ha voluto ritrasferire in digitale delle vecchie composizioni che fece, ma praticamente ridigitalizzandole, risuonando questi vecchissimi nastri, erano così vecchi e deteriorati che hanno iniziato a sgretolarsi durante la lettura e hanno causato quindi un sacco di incidenti, diciamo, di percorso su quello che doveva essere, e quindi delle distorsioni o dei buchi o dei rallentamenti, e hanno creato così la vera opera d'arte di William Basinski. Da lì in poi è stato un successo perché è stato appunto riconosciuto come un musicista sperimentale che di grandi doti e che ha avuto una grande idea. Tra l'altro, curioso che finì di registrare e rieditare i quattro dischi di Disintegration Loop proprio proprio l'11 settembre 2001, nella mattina, durante appunto praticamente l'attentato alle Torri Gemelle. La sua musica, come potete aver sentito, è molto sognante e naif, riprende appunto quasi tutta la sua opera, se non tutta suoni ripresi e suonati anche in analogico e poi riprocessati, ma a volte sono riconvertiti semplicemente in digitale. Vi faccio sentire anche un altro pezzo dove c'è lui di mezzo, che praticamente è stato un po' l'incipit di questa serata, perché ieri, mercoledì 20 marzo 2019, William Basinski ha suonato insieme a Lawrence English, e poi vi spiego chi è, ma anche di lui se ne era già parlato, alla Sala Vanni per il Disconnect Music. E ha fatto in concerto il CD, il disco del 2018, appunto il primo insieme a Lawrence English. E era praticamente una prima, diciamo, europea, perché per la prima volta loro due si trovavano in Europa a proporre varie date, e quella di Firenze era proprio la prima. Adesso vi metto il pezzo che si chiama Mono no Aware, non so come si pronuncia, però è un concetto estetico giapponese che esprime, leggo, una forte partecipazione emotiva nei confronti della bellezza della natura e della vita. Questo è il primo brano di due di questo disco. Buon ascolto, è parecchio lungo. Voi rilassatevi intanto e godete di questa roba che solo Radio Wombat vi continuo a offrire ormai da 3 anni a questa parte. E non solo questo, ovviamente, ma un sacco di bellissime, bellissime musiche e programmi molto, molto seri. Buon ascolto. Sei su Radio Wombat e questa è 8 Hz. Questi che avete appena ascoltato erano William Basinski e Lawrence English con un brano tratto dal loro primo disco insieme, diciamo, se non si sa se ce ne saranno altri, che si chiama, oddio, mi sono perso, si chiama Selva Oscura, proprio dal titolo in italiano del 2018, sempre per Temporary Residence Limited. Appunto, entrambi hanno suonato insieme dal vivo ieri. Precedentemente avevano suonato solo in un'occasione più piccola in America, mentre ieri in Sala Vanni. Appunto, questo disco è un po' una sorta di dualità tra due elementi, se vogliamo, molto differenti. William Basinski, che appunto più suona, più sognatore, più sentimentale, diciamo, più espressivo e emotivo, mentre Lawrence English invece è molto più scienziato della musica. Tra l'altro, mi sono ricordato anche che è molto curiosa questa cosa che Basinski ha fatto i Disintegration Loop, ma stasera c'è anche qualcuno qui di Radio Wombat che sta ascoltando Radio Wombat in AM alla frequenza 1359. Si prende solo a Firenze, ovviamente neanche in non tutta la città, purtroppo. E è curioso sentire come vengono riprodotti nell'etere queste frequenze ambientali, per cui si presuppone molto più mediose, e secondo me sono un bellissimo uguale da ascoltare anche per chi è in macchina o sta ascoltando la trasmissione con una radiolina o anche un apparato più serio di ricezione radio AM. Si diceva Lawrence English è l'altro personaggio un po' di questa sera che ha fatto tantissimi dischi e ha suonato con tante persone e ha anche fondato un'etichetta che si chiama la Room 40. Ha prodotto tra l'altro Scanner, Merzbow, Kate Fullerton Whitman, Ben Frost e anche Hexa, che è un altro progetto che vidi dal vivo, che è insieme alla mente degli XXU che si chiama Jamie Stewart. Tra l'altro, il tour che fecero sonorizzavano le fotografie di David Lynch, fu un bellissimo spettacolo. Si diceva che Lawrence English quindi è più scienziato del suono, ricercatore di concetti come memoria e percezione applicati al suono, come l'impatto del suono si fonda con le interazioni fra gli esseri viventi, lo spazio e la relatività, le relazioni tra interiorità ed esteriorità. Usa anche spesso il Fields Recording, che è un po', diciamo, la presa di fenomeni naturali esterni o non naturali. Può essere, per dirvi la cosa più ovvia, la presa audio del vento o dell'acqua, così come può essere la ripresa audio di una piazza affollata di persone o di automobili. E tra l'altro, il field recording per lui era molto simbolico di quello che fa, perché proprio leggendo un po' le sue parole, il field recording è questa pratica che invita ad ascoltare con attenzione profonda, più che informazioni. Da questo ascolto profondo, che io definisco relazionale, riceviamo sensazioni. Non sono solo i nostri sensi ad essere in gioco, ma anche la tecnologia che utilizziamo per captare e registrare i suoni ambientali. La dualità dell'orizzonte uditivo si compone dell'interiorità dell'ascolto e dell'esteriorità microfonica. Per più è condiviso l'orizzonte uditivo, meglio funziona il field recording. Quindi è proprio un dialogo tra scienza sonora e resa di percezione dell'ascolto, dell'ascoltatore. Il pezzo che vi faccio sentire è proprio suo, insieme a Liz Harris, che è conosciutissima come Grouper, che è una, diciamo, una compositrice, anche lei un po' ambientale, molto ambientale, anzi, con richiami alla musica antica attraverso l'uso di una voce sempre eterea, diciamo. Infatti ci fu qualcuno definì un disco famoso suo, che poi tra l'altro lei come pratica usa molto la cosa do it yourself, per cui tantissimi dischi che ha fatto, side project, sono comunque usciti su Bandcamp o su altri canali, ma senza nessun tipo di produttore alle spalle. Si diceva che beh, intanto io direi di farvi ascoltare il brano. Si chiama il progetto suo di Grouper o di Liz Harley insieme a Lawrence English. È un unico disco che fecero nel 2013, uscito per Peak Coil, e si chiama Slow Walkers. Il brano che metto è Wake. Di Wake, tra l'altro, di questo brano, più corto rispetto a quello che ascoltate, uscì anche un video che mi è piaciuto molto. È anche molto semplice: era una scena di un film di zombie rallentatissima, con questa folla di zombie che avanza a rallentatore. Insomma, quindi è paragonabile a una sorta di meditazione per non morti o per morti. Anche il nome Slow Walkers di per sé può richiamare questo tipo di immaginazione, che comunque in ognuno di questi pezzi ambientali che vi faccio ascoltare, l'apporto visivo è fondamentale anche per un ascolto e una ricezione a 360 gradi. Basinski, appunto, ha fatto anche delle installazioni di loop suoi con dei video suoi, che sono anche molto belle. Ho visto qualcosa e vale la pena di andarsele a cercare. Insomma, intanto vi metto questo brano, Slow Walkers, Wake. Buon ascolto. Thank you. Questa era Liz Harris, ovvero Grouper, insieme a Lawrence English, una versione assolutamente strumentale, perché spesso Grouper utilizza la voce come mezzo fondamentale anche delle sue composizioni. Un pezzo funereo che descrive un po' bene la situazione un po' a Firenze di questi giorni. Vi volevo un po', visto che siamo arrivati alla fine, perché c'è un brano, l'ultimo, che anche questo è abbastanza lungo, dura un quarto d'ora circa, ricordarvi un po' della radio, che è appunto una radio autofinanziata, radio autocostruita, che trasmette anche in AM all'1359. E di supportarla attraverso iniziative che via via vengono fatte e che è da 3 anni che sta andando avanti con una programmazione stupefacente, secondo me, piena zeppa di contenuti di qualsiasi tipo, sia musicali che critici, che di aggiornamento e di giornalismo proprio. Potete appunto informarvi su quello che è il palinsesto con le repliche, i vari podcast di tutto quello che c'è stato tranne a questa parte su wombat.noblogs.org, oppure anche dare un'occhiata sui social trovando Radio Wombat su Facebook o su Twitter, e poi credo basta perché sono già anche troppi. E scriveteci se vi va per comunicarci qualcosa, un sostegno o anche un'infamia, tanto siamo abituati alle infamie, su postawombat@insiberia.net. Tra l'altro, una cosa bella e allegra è che è uscita finalmente, è stata fatta la prima puntata di Sessioni Notturne, è questo programma che da un po' di mesi che era stato in partenza, ma non si erano ancora decisi a fare la prima trasmissione. Finalmente l'hanno fatta. È un programma di rap e hip hop che mancava dai tempi dello storico Mortal Wombat del primo anno. Quindi da, andate forte, siete stati bravi, continuate. Finisco con appunto un duo che fa sempre cose che hanno a che fare con l'ambient o il drone. È un duo italiano, abruzzese, che è stato fondato nel 2010 da Marco Marzuoli e in seguito si è aggiunto Alessandro Sergente degli Zippo. Il duo si chiama How to Cure Our Soul. E intanto vi dico i credits. Il brano si chiama Night Climb to the Mount Analog, estratto da Luna, che credo sia il secondo disco di tre per ora, uscito per Low Point nel 2016. E questo duo fa cose sia con i droni anche a nastro, manipolati, scuola Basinski, diciamo. Quindi con dei loop di tape, di nastri anzi, e anche con l'utilizzo di una chitarra effettatissima. Per cui ecco, loro volevano un po' ricreare detta in inglese, dei soundscape un po' che esprimessero un po' tante cose che hanno a che fare sia con il cielo, in questo caso con appunto questo disco Luna, ma anche armonie interne, umane. E anche questa cosa è bella un po' da immaginare, che essendo una radio questa che trasmette anche in AM, un concetto di musica quasi diciamo cosmica, per non usare una parola così influenzata negli ultimi anni su concetti artistici, che tutti fanno qualcosa a che fare col cosmo. In realtà le onde radio si dilatano, se non nel cosmo, ma nell'atmosfera terrestre. Per cui è bello immaginare che questo tipo di composizione come la loro si propaghi nell'etere anche in onde M, anche se nessuno magari sta ascoltando il brano. Io vi ringrazio per stasera, che è stata una puntata così abbastanza pesante a livello sonoro, ma anche molto leggera rispetto alle cose che spesso vi faccio ascoltare. Spero che vi sia piaciuta e vi siate fatti i vostri flash. Ah, tra l'altro, non mi ricordavo, ma Marco Marzuoli è anche ha un curriculum non indifferente, perché è anche un curatore di come si può dire, di mostre o di eventi artistici, e ha anche partecipato a questi. Tra l'altro lui ha anche dei video, delle video installazioni, audio-video installazioni di William Basinski, è un po', diciamo, il suo curatore in Italia, ma ha anche curato cose di Thomas Kohner e di Dreyblatt, per cui insomma è una persona che si dà da fare, è piena di capacità su questo tipo di mondo, e devo ringraziare lui se l'altra sera siamo riusciti a entrare nel backstage e parlare un poco sia con mi sto perdendo. Vabbè, sia con Basinski che con Lawrence English. Va bene, io vi lascio. Ci vediamo settimana prossima. Ci sentiamo settimana prossima. Forse avremo un ospite in regia, ma non vi dirò chi è, tanto lo scoprirete. È un pezzo da 90, ma non è Harry Rollins, diciamo. Quindi, alla settimana prossima, giovedì alle 21 e 15. A presto. Loro sono How to Cure Our Soul e il pezzo si chiama Night Climb to the Mount Anna.